Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Oggi torniamo su uno dei tanti aspetti sui quali, a causa della crisi finanziaria in corso, è aumentata, come dire, la soglia d'attenzione ed è stato necessario aumentare l'attenzione. Le autorità di vigilanza stanno monitorando attentamente la gestione delle casse previdenziali per monitorare i titoli su cui queste investono, e da recenti rilevazioni è stato possibile appurare che titoli tossici, è un brutto termine, ma questo è quello che abbiamo usato e che stiamo usando da mesi, titoli strutturati e partecipazioni targate Lehman Brothers sono finiti nei portafogli di alcune tra le principali casse di previdenza dei professionisti iscritti ad ordini e collegi. Si tratterebbe di un ammontare pari a 125 milioni complessivi di esposizione a Lehman e 3 miliardi di obbligazioni strutturate. Non è detto che queste ultime siano tossiche, ma anche il mondo legislativo ha ritenuto opportuno attivare una stretta sulla vigilanza, e oggi allora questo ci ha in qualche maniera indotto a ritornare a parlare degli effetti della crisi finanziaria non solo sulle casse previdenziali, tema di partenza, ma rifaremo anche un po' un monitoraggio anche sui fondi pensione. I nostri ospiti di questa mattina: Marco Lo Conte, collega di Plus 24 del Sole 24 ore. Marco, benvenuto. Buongiorno a tutti. Abbiamo Maurizio Agazzi collegato telefonicamente con noi, il segretario generale di Cometa, è il più importante fondo pensione in Italia, è il fondo nazionale pensione appunto complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica. Agazzi, benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Dovremmo raggiungere anche telefonicamente, se ce la faremo, Davide Squarzoni, direttore generale di Prometeia Advisor Sim. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, il numero per i vostri messaggi è il 349 238 6666. Un'occhiata alla borsa prima di partire su questo argomento, qualche anticipazione come sempre l'abbiamo già data nel giornale radio: all'indomani della decisione della Banca Centrale Americana di portare i tassi di interesse praticamente allo zero, in realtà è stato individuato questo corridoio fra lo zero e lo 0,25%, una decisione storica che ieri ha fatto volare Wall Street, ma stamattina non ha alcun impatto in Europa. Infatti abbiamo gli indici in flessione, in miglioramento rispetto a poco fa quando perdevano più di un punto. Adesso il quadro è di un calo di circa lo 0,10-0,20% tra Parigi, Francoforte e Londra, Milano meno 0,01%. Qua oggi l'attenzione è puntata sui titoli del settore bancario, con BNP Paribas che a Parigi sta crollando del 15-16% dopo l'annuncio di ancora tagli occupazionali nella divisione in particolar modo dell'investment banking, e dunque ristrutturazioni nel settore che pesano in borsa. Tra l'altro il calo di BNP Paribas porta con sé anche quello del gruppo Dexia, meno 7%, Société Générale meno 6%, stesso andazzo anche per i titoli del settore a Francoforte: Deutsche Bank perde il 6,5%, Commerzbank il 5%, per cui ancora una volta oggi le banche a condizionare la seduta sui mercati. A Milano titoli positivi: Italcementi più 3%, Finmeccanica più 2,85%, Enel più 1,87%, Intesa San Paolo più 1,75%, quindi Intesa va completamente in controtendenza rispetto al settore in Europa, e invece è pienamente in linea UbiBanca che perde quasi 5 punti. In realtà il gruppo ha comunicato quanto è esposto rispetto al crack Madoff negli Stati Uniti, si parla di 60 milioni di euro, e questo stamattina sta pesando appunto sulle contrattazioni. Mondadori meno 4, Alleanza meno 2,41, Autogrill meno 2,21, abbiamo dei ribassi di circa 2 punti anche su Geox, Terna, Monte dei Paschi e Luxottica. Sul settore del lusso pesa questo dollaro che continua a scendere sull'euro, anche inevitabilmente per la decisione sui tassi presa ieri sera. L'euro stamattina quota 1,41,06 sul biglietto verde. Direi di lasciare la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina. E come vi preannunciavo poco fa, oggi torniamo a parlare degli effetti della crisi finanziaria sul sistema previdenziale italiano. L'uragano Lehman non smette di mietere vittime. Le ultime all'appello sono le casse di previdenza, che da pochi giorni sono finite sotto la lente della Commissione bicamerale di vigilanza sugli enti previdenziali dei professionisti. L'indagine della Commissione ha lo scopo di esaminare i portafogli delle casse per portare alla luce eventuali investimenti a rischio. E i primi risultati sono già stati resi noti. Ammonterebbe a 125 milioni l'esposizione complessiva a titoli diretti Lehman e a oltre 3 miliardi l'investimento in obbligazioni strutturate. Non è detto tuttavia che queste ultime siano tossiche, ma è appunto compito delle autorità di vigilanza verificarlo. Tra le casse più esposte figurano l'Enasarco, la cassa degli agenti e rappresentanti del commercio, l'EMPAV dei veterinari, l'EMPAIA degli impiegati nell'agricoltura, l'EPAP, cassa pluricategoriale, e l'INARCASSA degli ingegneri e degli architetti. Mentre si è rafforzato il controllo sulla gestione della previdenza obbligatoria, il caso Lehman da mesi alimenta anche i dubbi dei lavoratori, che hanno deciso di conferire il proprio TFR ai fondi pensione, investendo così nella previdenza complementare, sebbene, è giusto ricordarlo, l'utilizzo di questi strumenti a rischio sia vietato in molte gestioni previdenziali e i fondi pensione, da inizio anno, abbiano perso in termini percentuali molto meno dei mercati azionari. Il dissesto della banca d'affari americana ha comunque colpito anche i fondi integrativi. Secondo dati della COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi, in 16 fondi su 600 è stata riscontrata la presenza di titoli Lehman, in una percentuale molto contenuta, appena superiore allo 0,5%, e comunque in nessun caso la quota di patrimonio coinvolta è risultata superiore all'1%. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666, numero per i vostri messaggi. Il primo che è arrivato è di un ingegnere, Andrea si firma, che ci chiedeva di Inarcassa, e noi ne abbiamo parlato proprio nella nostra scheda. Poi magari, se avrete curiosità rispettivamente a specifiche casse previdenziali, ve ne daremo nel corso appunto della nostra trasmissione. Allora, Marco Lo Conte, proprio sull'esposizione delle casse previdenziali tu hai scritto molto in questi giorni, alla luce di quanto indicavamo nella scheda, alla luce di questo monitoraggio che è stato fatto appunto in sede parlamentare, no? C'è una commissione che sta monitorando l'ammontare dell'esposizione delle casse previdenziali su titoli Lehman, e quindi questi benedetti, maledetti titoli tossici. A che punto è il lavoro della commissione? Perché credo che non sia terminato, tra l'altro. Non è terminato, ma diciamo che una gran parte del percorso è stato compiuto. Non riguarda soltanto l'esposizione a Lehman Brothers, riguarda, diciamo, una analisi un po' più approfondita e attenta sul bilancio e sui patrimoni di investimenti delle casse, cosa che in passato non era stata compiuta mai in maniera così approfondita. Da questa legislatura la Commissione ha accelerato nell'approfondimento dell'indagine sugli investimenti delle casse. Questo, tra l'altro, si è incrociato con la crisi finanziaria dopo l'estate e con Lehman, e con questo faro lanciato sulle obbligazioni strutturate, che pur non essendo assolutamente come categoria in sé per sé degli strumenti tossici, assolutamente, possono però presentare delle caratteristiche che purtroppo si sposano a una serie di opacità, una serie di vischiosità, perché sono titoli molto complicati, molto complessi, che presentano a volte delle insidie nascoste. Ciò detto, la Commissione ha guidato, diciamo, un'indagine che è stata realizzata insieme al Ministero del Welfare in particolare, e con la collaborazione di delle altre autorità di vigilanza collegate, ossia da una parte il Ministero della Giustizia, che collabora perché ha una serie di informative collegate, così come, anche se in maniera sostanzialmente informale, la Corte dei Conti, che dà una vigilanza ex post rispetto ai bilanci. Qui stiamo analizzando i bilanci, cioè i dati relativi al 2008, quelli che saranno comunicati nei bilanci che verranno pubblicati e resi noti, si presume, dalla primavera del 2009 in poi. Presumo, perché questi sono bilanci di strutture private e le casse dei professionisti sono sempre state molto gelose della propria caratteristica privatistica, perché hanno paura di essere annessi all'INPS, detta in maniera brutale, diciamo, semplice, sì, ma sintetica, e cercano di astrarsi quanto più possibile dalle mire dell'INPS. Ecco, a parte questo, Marco, magari ti interrompo, poi continueremo su questo filino, tanto per far capire anche di che cosa stiamo parlando ai nostri ascoltatori, che magari evidentemente hanno, come dire, una gestione della propria previdenza differente rispetto agli ordini professionali. Ecco, quando parliamo delle casse di previdenza privatistiche, stiamo parlando di pensioni esatto, di primo pilastro, cioè pensione obbligatoria, sono pensioni sostitutive a quelle che per esempio un lavoratore dipendente ha quando per esempio dall'INPS oppure dall'INPDAP. Esatto. Quindi sono sostitutive del primo pilastro, sono il primo pilastro, anche se poi per ragioni normative su cui è difficile approfondire, ma insomma alcune delle casse hanno anche una valenza complementare, se no, sono sia di primo che di secondo pilastro. Questo dà un po' l'idea anche della paradossalità della complicazione di alcuni regolamenti. Però sono, quindi, tanto per spiegare, pubbliche. Tornando per esempio all'ingegnere Andrea che ci chiedeva, sì, di Inarcassa, ad Andrea la pensione verrà erogata da Inarcassa quando sarà, sì, arrivato il momento del suo pensionamento, non dall'INPS. Sì. Quindi, ecco, insomma, per far capire bene di cosa stiamo, sì, parlando. Perché non abbia poi posizioni aperte presso l'INPS, ma a quel punto, certo, lì converrà lì, totalizzare. Certo. Esatto, qui stiamo andando anche oltre. Arrivano intanto già dei messaggi e delle domande appunto da parte dei nostri ascoltatori che sentiremo tra poco. Ritorno ai nostri ospiti, abbiamo finalmente raggiunto Davide Squarzoni, direttore generale di Prometeia Advisor SIM. Squarzoni, buongiorno. Buongiorno a voi. Che cosa fa in rapporto alle casse privatistiche un advisor? Qual è il vostro ruolo, per capire anche, come dire, che responsabilità avete, tra virgolette, in relazione all'attività di quelle casse che hanno scoperto di avere in portafoglio anche titoli tossici? È un brutto termine, ma questo è quello che ci passa il convento in questo periodo, Squarzoni. Sì, ma allora diciamo che la nostra attività in questi anni è stata, diciamo, molto variegata, nel senso che ci sono alcuni enti che ci affidano sia la parte, diciamo, di strategia di investimento che poi la parte di implementazione, nel senso di supportarli nella scelta poi di titoli, gestori e quant'altro, e ci sono altri invece che hanno fatto abbastanza per conto loro, delegandoci più la parte di controllo, monitoraggio degli investimenti svolti. Diciamo che se c'è una svolta che sentivo prima lo Conte illustrare dal punto di vista della vigilanza e normativo, c'è secondo noi una svolta anche dal punto di vista dell'operatività di queste casse e del nostro ruolo di advisor, che è appunto quella della cosiddetta, visto che ci sono i titoli tossici, usiamo un altro termine di moda, asset and liability management, cioè gestione congiunta degli attivi e dei passivi, che è una tecnica che è diffusa da decenni su altri mercati, su altre tipologie di investitori e che finalmente sta prendendo piede anche in Italia. Gestione congiunta tra chi, mi scusi Squarzoni? Tra attivi e passivi, cioè un iscritto, un professionista appena si iscrive alla sua cassa comincia a versare attivi, ma in realtà rappresenta per la cassa un passivo a 30-40 anni data, cioè quando andrà in pensione. E quindi queste, siccome si tratta di previdenza obbligatoria e a prestazione definita, di fatto è molto semplice dal punto di vista metodologico riuscire a incrociare queste due poste, diciamo, salvo appunto che il sistema sia in equilibrio e sia sostenibile. Un altro aspetto che mi stava venendo in mente adesso mentre Marco Loconte ci spiegava appunto, come abbiamo anche indicato nella nostra scheda, l'ammontare delle esposizioni in titoli non propriamente, richiamiamoli, tossici appunto, e mi stupiva il fatto che alcune casse gestiscono direttamente il proprio patrimonio e non si avvalgono di intermediari. Ma per quello che riguarda appunto la gestione del proprio patrimonio da parte delle casse, Squarzoni, non ci sono dei vincoli di gestione, come per esempio accade anche grazie alla nuova legislazione per i fondi pensione, per i fondi complementari? Ce ne sono molti meno, diciamo che è un settore che ha tanti vigilanti, ma in realtà nessuno effettivamente efficace e stringente, soprattutto sulla parte finanziaria, come può essere per esempio la Covid per i fondi pensione. Tuttavia io non ritengo che la soluzione sia la delega di gestione, come è appunto accaduto nel caso dei fondi pensione, e i risultati stanno a dimostrarlo. Non è tanto un problema di delega della responsabilità, anzi i fondi pensione si dovrebbero riappropriare di parte almeno della responsabilità della gestione, mi riferisco per esempio ai titoli di Stato o alla gestione della tesoreria. Quindi si tratta di gestire direttamente le classi di attività, ripeto, più legate al passivo, e quindi un BTP o un BTP legato all'inflazione non hanno nessun bisogno di passare da un gestore che aumenta solo i costi, però appunto va fatto con delle metodologie e delle tecnologie che consentano di comprare a dei prezzi adeguati e di vendere quando è il caso di farlo, ovviamente con un obiettivo di lungo termine effettiva, non solo a parole. Marco, questo è un problema aperto per quello che riguarda la gestione delle casse previdenziali? Cioè, come dire, implementare addirittura, no, lui diceva in realtà per i fondi pensione, però implementare l'autonomia della gestione di questi è una soluzione che è in questo momento in discussione? Allora, sicuramente per quanto riguarda i fondi pensione, quelli dalle dimensioni più importanti e dalle capacità anche corrispondenti, una delle evoluzioni è proprio quello di riappropriarsi, diciamo così, di appropriarsi del protagonismo per quanto riguarda gli investimenti, dunque un comitato che investe, così come accade, senza fare troppo l'esterofilo, però i grossi fondi pensione a livello europeo più o meno questo fanno, danno mandato per alcune cose ad alcune società e molte cose le fanno da soli, insomma investire in BTP, in BOT non è indispensabile dare una delega di gestione, per esempio, almeno per una parte, insomma. Per quanto riguarda le casse, sottolineo quello che diceva Squarzoni, insomma l'evoluzione anche della gestione sta migliorando anche in relazione alla gestione e quindi gli attivi con l'incrocio con i passivi, si sta evolvendo in maniera positiva la gestione finanziaria e previdenziale delle casse, anche se veniamo da una fase in cui tutta questa gestione era assolutamente primordiale, insomma sotto certi aspetti. Un gruppo di persone delegate dall'ordine guidavano, diciamo, le casse, davano spesso totale delega a persone di fiducia, non scelte, non selezionate, ma di fiducia, che compivano delle scelte spesso discrezionali, senza gare, senza bandi, senza, a volte senza trasparenza, portandosi dietro una serie anche di, come dire, chiacchiericcio e malignità inevitabili quando le scelte sono particolarmente discrezionali. E dunque i risultati spesso coincidevano con gli obiettivi, perché ricordo che sono fondi pensione, sono casse che hanno degli obiettivi di rendimenti, devono guadagnare il 5%, se poi, come dire, in realtà potrebbero anche guadagnare l'8 e non lo fanno, beh, insomma, chi lo va a verificare, no? E per cui, diciamo, si parte da una situazione di grande vischiosità. Ripeto, stanno migliorando molto le cose anche all'interno delle casse, però sono molto indietro per quanto riguarda la trasparenza. Per esempio, non tutte le casse previdenziali, anzi poche, hanno una banca depositaria. Cosa fa la banca depositaria? Esegue gli ordini di acquisto e di vendita. Tra l'altro abbiamo spiegato anche ieri per il caso Madoff. Esatto. Ecco. Allora, una banca depositaria seria deve dare il via libera delle operazioni in base ad una serie di criteri. I fondi pensione hanno un decreto che si chiama il 703, secondo i quali queste operazioni sono consentite. Altre il fondo le può delegare, come dire, alla banca depositaria, le può affidare una serie di mandati, cioè niente BTP, soltanto CCT, giusto per dire, no? per fare un esempio. Se una cassa non ha la banca depositaria, allora la discrezionalità del comitato finanziario o della singola persona è totale. E certo, poi c'è il consiglio d'amministrazione, certo, poi c'è, però alla fine, se sono quattro amici al bar che decidono gli investimenti di miliardi di euro, beh, forse c'è qualcosa di meglio, diciamo, ecco, che, insomma, diciamo un ripensamento nell'attività e nella gestione è necessario a quanto pare, e forse la crisi finanziaria in corso ha avuto questo come dire anche buon è un buon campanello d'allarme, una buona, insomma, sveglia per mettere le cose un po' in ordine. Esatto, insomma, ha rubato le parole di bocca che a me non venivano, no, tra l'altro perché stavo guardando anche che il tempo a nostra disposizione per la prima parte di Salva Danaio è già arrivato al termine. Maurizio Agazzi, ancora un minuto di pazienza per poi cominciare a chiacchierare anche con lei su Cometa. Titoli tossici anche nel fondo pensione dei metalmeccanici ce ne sono? No, abbiamo una minima esposizione pari allo 0,10 in obbligazioni Lehman, ma su un portafoglio differenziato in almeno 1200 titoli. Per cui, insomma, anche qua esattamente un po' come tra l'altro rilevava il monitoraggio che invece ha fatto la Covip sulla previdenza complementare. Salva Danaio. Eccoci ritrovati in diretta ancora, buona giornata, da Deborah Rosciani. Come già detto prima, stamattina stiamo parlando ancora una volta, in realtà lo abbiamo fatto più volte negli ultimi mesi, degli effetti della crisi finanziaria sulle tematiche previdenziali, fondi pensione, ma soprattutto casse privatistiche, le casse previdenziali dei professionisti iscritti a ordini e collegi. Si è scoperto in un'indagine appunto di natura parlamentare che molte di queste casse avevano delle esposizioni dirette o indirette in titoli Lehman, percentuali comunque come dire rispetto al patrimonio portafoglio complessivo assolutamente sotto controllo. Di fatto però questa situazione, come ci diceva Marco Loconte, ha alzato il velo su gestioni a volte non completamente trasparenti, no? Del patrimonio di queste casse, quindi opache esposizioni in titoli strutturati che magari sì, conferiscono sicuramente rendimenti garantiti, però presentano poi problematiche di altra natura. Allora, per tornare, per rimanere, anche se ho sollecitato anche Maurizio Agazzi di Cometa, però vorrei per un attimo ritornare alla questione delle casse di previdenza, perché c'è Lino da Pordenone con una domanda. Lino, benvenuto. Buongiorno, senta, io sono Lino a Pordenone, ho circa 63 anni, sono un agente di commercio. Sì. Sono un tesserato usarci dei sindacati, dei agenti di commercio, e l'altro giorno avevo avuto una riunione che non ho potuto andare per motivi di lavoro, e che parlavano di questo Enasarco e con questi soldi investiti in America lì, ecco. Sì. Io volevo sapere che questo Enasarco, perché io fra 2 anni dovrei andare in pensione, in quiescenza, vorrei sapere se questa pensione si riesce a prendere veramente, perché qui si parla di 500 milioni di euro investiti a questa cassa americana. Lino, grazie. Io la ringrazio per la sua domanda, perché l'abbiamo voluta scegliere proprio perché ci può sembrare abbastanza rappresentativa poi, no, della sensibilità intorno a queste tematiche, certo. Anche del fatto che molto spesso rispetto ad una notizia poi noi tutti ci immaginiamo di avere in qualche maniera, questo è quello che ci ha insegnato Lehman Brothers, magari un prodotto di investimento in casa nostra che scopriamo ora essere agganciato a questi prodotti. Però diciamo che un Lino che va in pensione fra 2 anni non ha alcun problema, non è che il fatto, a parte che Enasarco non ha una esposizione diretta in Lehman Brothers, al limite diretta, ha dei titoli strutturati, ecco. Ha molti titoli strutturati, in realtà non per 500 ma per 780 milioni di euro in una obbligazione, chiamiamola così, che si chiama Anthracite, che è di una società di Lehman Brothers. Cosa faceva Lehman Brothers? Metteva alcune sue, non sempre, però metteva anche delle sue tossicità in queste società veicolo esterne, SIV o come altre sigle possono essere definite. E queste società emettevano delle obbligazioni. Così viralmente i titoli tossici sono andati un po' in giro per il mondo, ma non soltanto i titoli tossici, insomma si è moltiplicata la finanza in questo modo. Ma al di là, tanto per tornare al nostro ascoltatore, l'impatto sulla sua pensione credo che sia, se ci sarà, sarà assolutamente ridotto a pochi decimi di punto percentuale. Una delle cosa vuol dire? Che rispetto a quello che può prevedere adesso prenderà un po' meno? Ma proprio allora, la brutalizzo per farci capire. Brutalmente. Allora, una delle cose che si tratterà di capire veramente, la prossima sfida, diciamo così, di vigilanza e di analisi sui conti delle casse, è quale impatto ci sarà sulle rendite future. Quelle immediate che arriveranno, saranno erogate da qui a pochi anni, a pochi mesi, e quelle un po' più là nel tempo. A mio giudizio, secondo me, l'impatto soprattutto per chi andrà in pensione tra poco sarà quasi nullo. Però lasciamo il condizionale, lasciamo il qualche dubbio di verifica, soprattutto questa perché è una crisi che, perché, come dire, che ha rinnovato le sorprese di giorno in giorno, per cui sì, anche però, delle sicurezze. Però non bisogna neanche sovreccitare le paure, perché secondo me il problema di Enasarco non riguarda tanto questa obbligazione, perché una parola su Enasarco. Enasarco oggi ha questo patrimonio perché prima ne aveva uno ben peggiore. Enasarco, lo ricordo, 2 anni fa, poco più di 2 anni fa, si è visto arrestare per un giro di tangenti i propri vertici, l'attuari, oltre che i vertici di Confcommercio. Si è scoperta una gestione molto, ma molto più allegra, più allegra rispetto alla, e peggiore di quella. Lehman, esatto. È stata commissariata la cassa, è stato dato mandato ad un advisor di ristrutturare tutto il portafoglio. La ristrutturazione ha praticamente scambiato vecchi titoli, altro che tossici, tossicissimi, con una struttura molto più efficiente. Certo, non era la migliore in assoluto. Daniele Pace, in diversi casi, quando l'abbiamo intervistato, ha sottolineato... È l'advisor di quella cassa. Quindi che, non è Squarzoni, insomma. No, non è Squarzoni. che, insomma, non è certo il portafoglio ideale quello che ha messo su per Enasarco, però rispetto a prima l'ha sistemato un po' meglio. Poi potremo discutere, ma sostanzialmente è partito dalla serie D Enasarco, ora non è ancora in vetta alla classifica di serie A, però insomma ha guadagnato, diciamo, qualche posizione, esatto. Squarzoni, Prometeia invece di quale cassa di previdenza privata è advisor? Se si può dire, perché so che non è nella policy appunto dell'advisor uscire allo scoperto in questo senso. No, beh, per carità. Allora, noi abbiamo dei vincoli di riservatezza contrattuali, per cui ovviamente non farò dei nomi, però diciamo che ne seguiamo 8, per cui abbiamo una buona rappresentatività sia di casse, diciamo, di primo pilastro che di quelle, quindi quelle di prima generazione come le Nasarco, sia di quelle, diciamo, costituite post la riforma del 95, quindi di quelle contributive. Ecco, lei, se avessi rivolto a lei, Squarzoni, la domanda che ho rivolto a Marco Loconte attraverso appunto il quesito posto da nostro ascoltatore che diceva vado in pensione tra 2 anni e temo che la mia rendita non potrà essere quella che immaginavo, se altri lavoratori di casse che voi seguite appunto si ponessero lo stesso interrogativo, secondo lei come possono essere rassicurati? Ci sono i margini per poterli rassicurare? Ma allora, qui bisogna distinguere tra appunto i professionisti, diciamo, un po' più anziani come l'ascoltatore, che secondo me non hanno nessun problema nel breve termine, come ha detto Loconte, proprio perché sono schemi a prestazione definita, a ripartizione, per cui le regole sono certe fino a che appunto non cambiano le regole, ma di solito anche quando cambiano le regole i diritti acquisiti vengono rispettati. Chi si dovrebbe preoccupare veramente, come anche per la previdenza pubblica di primo pilastro, non solo per quella privata, sono i lavoratori più giovani, i professionisti più giovani, perché comunque la riforma in senso contributivo di queste casse sarà inevitabile, come pure la loro concentrazione, quindi il contributivo rende il sistema stabile e non in pericolo di default, diciamo, ma riduce drasticamente le prestazioni. E questo deve necessariamente succedere anche alla previdenza dei professionisti, come è già successo, ahimè, alla previdenza dei lavoratori pubblici dipendenti. Maurizio Agazzi, finalmente arrivo a lei, segretario generale di Cometa, il fondo pensione più grande in Italia, perché rappresenta appunto il mondo dei metalmeccanici. Adesso, a prescindere dal tema di cui stiamo parlando questa mattina, a prescindere poi relativamente perché è inevitabilmente anche collegato, a parte l'esposizione diretta sui titoli Lehman, in realtà i fondi pensione, il problema più grosso in qualche maniera che hanno dovuto affrontare negli ultimi mesi è che molti lavoratori avevano scelto di conferire proprio TFR al fondo pensione e lo hanno fatto in un momento di mercato che ovviamente, ma questa è una situazione che ha riguardato tutti, che non poteva essere peggiore, no? E quindi le chiedo che tipo di preoccupazioni stanno sollevando i vostri iscritti in questo momento? Ma diciamo che i nostri iscritti guardano con attenzione l'evoluzione, però non viene ancora espressa una preoccupazione rilevante, anche perché il meccanismo di adesione ha comportato per chi avesse aderito con il tacito conferimento l'indirizzo del proprio TFR in un comparto garantito e quindi hanno la garanzia di rendimento stabilita contrattualmente. Per quanto riguarda il comparto Cometa, diciamo che il fondo Cometa, i 200.000 circa lavoratori che hanno aderito esplicitamente sono ancora attualmente collocati in un comparto monetario che ha un andamento positivo. A novembre era intorno al 2% di rendimento netto da inizio anno. Quindi meglio del TFR in azienda? Non meglio del TFR, okay. Però non sono toccati, non avendo il comparto, avendo il nostro comparto monetario solo titoli appunto obbligazionari, avendo Cometa fin dall'insorgere, da prima dell'insorgere, dalla prima crisi dei subprime, che ha cominciato a preoccupare, operato una riduzione forte dei titoli di corpore del nostro comparto monetario, oggi ha una percentuale intorno al 10% di titoli di corpore e del 90% di titoli governativi, non sono toccati. Chiaramente c'è un problema di obiettivo di lungo periodo, quindi mi interessa molto il dibattito rispetto alle casse previdenziali e all'impatto che può avere anche complessivamente sia sull'opinione pubblica sia sugli obiettivi che possono essere realizzati dai fondi pensione. E quindi il fondo si sta interrogando su quali sono gli obiettivi e quali risposte migliori rispetto a questa crisi che non è breve, nella quale il fondo, attraverso la diversificazione, attraverso la banca depositaria, attraverso limiti di legge e ulteriori limiti introdotti dal fondo in un'ottica di prudenza, può comunque coniugare quello che è un obiettivo di dare una pensione rispetto a una situazione di crisi di mercato. Io voglio solo ricordare che il fondo Cometa, pur non avendo obbligazioni strutturate, ha deciso al suo interno, laddove si dovessero utilizzare questi strumenti, di porre dei limiti di rating anche se il rating oggi è un pochino meno di moda, però molto più elevati di quelli stabiliti dal decreto 703, cioè mm-hmm. noi consentiamo per esempio l'utilizzo di titoli strutturati solo qualora il rating sia almeno pari a meno, non solo per l'emittente ma anche per i titoli sottostanti. Ma siccome non ci fidiamo più del semplice rating, abbiamo attuato attraverso i nostri sistemi di controllo interno, abbiamo sviluppato molto il controllo della gestione finanziaria, anche un'analisi sui cosiddetti CDS, cioè qual è l'assicurazione contro qual è il prezzo assicurativo contro fallimento del titolo, e confrontiamo quotidianamente i rating con questi ulteriori strumenti. Quindi è chiaro che una maggiore responsabilità nella gestione, nel controllo della gestione, va imposto al fondo pensione, che deve probabilmente riflettere su quali sono appunto i limiti, quali controlli, quale tipo di governance e quali strumenti sono più efficaci per traguardare questo periodo di crisi e mantenere il suo obiettivo previdenziale. Quindi insomma grande attivismo in Casa Cometa per aggredire la crisi. Marco, poi magari ci dirai se anche gli altri fondi pensione si sono, come dire, mossi nella stessa direzione, nello stesso modo. Salva Danaio. C'è un ascoltatore che scrive al 349-238-6666, si degni di rispondere Camillo, ma mi sbaglio, si tratta dei fondi da lei consigliati ai lavoratori che per fortuna hanno scelto INPS e adesso sono in vantaggio? Marco, mi abbiamo dato questi consigli così spregiudicati in 2 anni di spiegazione della riforma del TFR? A me non sembra di essere stata mai così esplicita, abbiamo solo cercato di spiegare nel meglio in cui abbiamo potuto fare quali erano le opportunità della previdenza complementare, abbiamo anche dato grande spazio a tutti coloro che erano scettici e che rimangono, tra l'altro, perché poi il tasso di adesione alla previdenza complementare, Marco, non so quanto sia cresciuta negli ultimi mesi, quindi poco. Anche se avessimo sponsorizzato tanto i fondi, non so che successo avremmo potuto ottenere. No, ma intanto precisione, perché sennò non ci capiamo. Ecco. L'INPS non si sceglie, si subisce, infatti. Lo dicono loro. No, ma al di là delle battute, non si sceglie l'INPS. Chi lavora in un'azienda con più di 50 dipendenti, il proprio TFR continua a darlo all'azienda che poi lo gira all'INPS. E molti dicono piuttosto che darlo all'INPS, lo do un fondo pensione. Tutte le opinioni hanno diritto di cittadinanza, non c'è problema. Allora, questo però mi dà il destro per ricordare 2 articoli che ho pubblicato recentemente sul Sole 24 Ore e su Plus. E riprendono, allora, il primo, il confronto che aveva fatto la Covip. Ogni anno verifica quanto rendono in media i fondi pensione e quanto rende in media il TFR. Mm-hmm. È una partita che dal 2003 in poi ha sempre visto i fondi pensione guadagnare. Ecco, intanto questo anche magari per dirlo a chi ci chiede quanto ha fatto il mio comparto del mio fondo pensione eccetera. Comunque le, allora, ecco. Ognuno sono 40 fondi pensione negoziali più quelli aperti più i PIP, ognuno si può guardare il suo, perché sono veramente tanti. Allora, fino a l'anno scorso i fondi pensione hanno sempre battuto il TFR anche di 11 punti percentuali, l'ultima stima dava più 25% dal 2003 al 2007, i fondi pensione più qui 14% il TFR. C'è voluta una crisi finanziaria sistemica globale, la nazionalizzazione delle banche statunitensi, l'orlo del baratro che si apriva sotto i piedi di tutti dal punto di vista finanziario per far sì che invece la situazione si in parte rovesciasse, perché ai dati al 31 ottobre scorso la Covip ha registrato il sorpasso del TFR sui fondi pensione. Quindi uno direbbe va bene, investire, dare i soldi all'azienda conviene. No, non è vero, perché da una elaborazione che abbiamo fatto insieme ai fondi pensione sui soldi veri, cioè l'analisi money weighted e non time weighted, cioè non confrontando i periodi ma i soldi veri che hanno i primi aderenti ai fondi pensione, abbiamo verificato che anche al netto del beneficio fiscale, grazie al contributo datoriale, infatti è lì che volevo e grazie al fatto che uno dà a un fondo pensione periodicamente il denaro e non tutti insieme, comunque al momento il rendimento è positivo. Potrebbe anche essere negativo, potrebbe anche andare in calo, però la prospettiva è che presto o tardi la crisi finisca, presto o tardi ci sia un rimbalzo. No, e diciamo questo, che è assolutamente probabile che nel 2009 continueremo ancora a parlare di rendimenti in forte difficoltà. Sicuramente. E questo, comunque, insomma, ve lo diciamo a metà dicembre del 2008, questo è come dire un copione già scritto. Ma per chi me. Ha più di 10 anni dalla pensione non c'è partita, perché comunque il contributo datoriale è quell'1-2% del reddito del lavoratore ed è importante. Questo non fluttua a seconda delle borse ed è molto rilevante se parametrato al 7% del TFR, cioè chi mette il 7% guadagna il 2%. No, poi volevo anche magari così rispondere a quegli ascoltatori che muovono questa obiezione, cioè io che mi sto avvicinando alla pensione, visto come stanno andando i mercati, rischio di perdere tutto arrivare. No, perché negli ultimi anni dei versamenti praticamente nella previdenza complementare ci si sposta su comparti difensivi che tendono a proteggere il capitale investito. Stefano da Roma, eccoci da lei, buongiorno. Gentile signora, grazie dell'ospitalità. Grazie a lei. Io sono un architetto libero professionista, ormai pensionando in Inarcassa, che è una delle casse che è stata più recentemente premiata. Sì, ne abbiamo parlato anche all'inizio. Sì. Quando avete fatto l'elenco prima, devo dire che mi ha sorpreso molto aver sentito il signor Marco che lo ha messo buon'ultima, ma comunque c'è dentro qualche peccatuccio. Dato che lui ha visto cosa hanno investito, o forse lo può dire con maggiore competenza e conoscenza, se mi può anticipare se si tratta di un peccatuccio veniale o mortale, perché abbiamo ricevuto il bollettino trimestrale dall'Ordine degli Architetti, ma non c'erano peccatucci di questo tipo, anzi c'erano sempre le piume belle lucide. No, diciamo che il peccato è medio, non è. Diciamo che Marco non è che lo deve anticipare, Inarcassa lo ha dovuto comunicare per forza in questa audizione parlamentare che è stata fatta. Marco, a quanto ammonta il peccatuccio di Inarcassa? Beh, allora, al di là delle semplificazioni giornalistiche, che poi insomma fateci un po' la tara, noi cerchiamo di renderci, di farci capire, però insomma i numeri, andando al sodo, Inarcassa ha nel proprio patrimonio mobiliare lo 0,43% di titoli Lehman Brothers, ossia 14 milioni di euro. Per quanto riguarda le obbligazioni strutturate, questo è un altro tema, rappresentano il 18% del proprio portafoglio. Quando l'altro giorno appunto ho sentito il presidente Paolo Amoratorio di Inarcassa per approfondire insomma questa esposizione in titoli strutturati, mi ha spiegato e l'ho riportato sul Sole 24 Ore il fatto che Inarcassa organizza da sola le proprie obbligazioni strutturate utilizzando titoli governativi, strutture semplici, non tossiche, non articolate, quindi questo è già un elemento positivo rispetto invece a altri comportamenti che sono meno positivi. Lo Stefano che avevo sentito era quello di Milano, per la verità Stefano da Roma, lei oggi è destinata a soffrire fino alla fine con noi, però riesco a sentirla, buongiorno. No. Sì, salve, ci dica. Salve, io sono fatto... Stefano, niente, è una sofferenza, non riusciamo proprio a sentire bene questa telefonata. Credo che però Stefano volesse chiedere, ha investito appunto in un fondo di previdenza complementare, non sappiamo quale, chiedeva se era meglio riscattare ora per perdere meno o attendere la scadenza. Stefano, questo diciamo un po' anche l'atteggiamento, un se po' uno, di confusione. Ecco. Generalmente se uno non è in grado di sopportare la volatilità si scelga una linea garantita e aspetti lì migliori tempi. Chi invece ha tanto tempo a disposizione può anche mantenere un'esposizione a una linea più aggressiva, perché questo frutterà molto nel lungo termine. Io tra l'altro c'era anche un'altra considerazione interessante sulla quale mi ero promessa appunto di andare a fare anche dei commenti con i nostri ospiti. C'è un ascoltatore che ci dice, a proposito del fondo Cometa, ma questo può valere anche per altri fondi di previdenza complementare, sto adesso puntando, sono passato da poco al comparto crescita, sono un caso isolato oppure qualcun altro ha deciso di osare? Per la verità anche questo è un tema aperto. Ho letto un'intervista al presidente di MEFOP, Mauro Marè, che diceva insomma forse questo è proprio un buon momento per chi non l'ha fatto di puntare sulla previdenza complementare, perché sicuramente può soprattutto per chi ha meno di diciamo 45 anni e quindi ha davanti a sé almeno 15 anni di permanenza in un fondo pensione, comprare tra virgolette quote di linee aggressive può essere particolarmente premiante, perché queste quote sono scese di valore, per cui uno va a comprare a meno quello che si presume nel giro di 5, 10, 15 anni varrà di più. Volevo chiederlo anche a Maurizio Agazzi, visto che l'ascoltatore appunto è un aderente a Cometa. Agazzi, avete notato, non so se l'ha fatto lei direttamente, questi già inizi di travasi? Ma no, allora, innanzitutto vorrei fare una premessa, nel senso, concordo sul fattore età e sul fatto che possa essere un buon momento. Vorrei richiamare l'attenzione però allo strumento previdenziale e quindi all'obiettivo, certo, di pensione, cioè qui non è un punto, è il momento migliore per entrare, per uscire. Chi aderisce alla previdenza complementare dovrebbe verificare qual è il suo bisogno pensionistico da raggiungere attraverso la previdenza complementare, qual è il suo orizzonte temporale e decidere in base a questo. Noi notiamo spesso, ma vale per i fondi pensione come vale per le altre forme di investimento, che a fronte di buoni rendimenti ci si butta, a fronte di perdite si scappa. Si scappa, non è il classico della finanza comportamentale. Sì, ma non è il modo per decidere la finanza previdenziale. Certo. Cioè, allora, se io ho un obiettivo previdenziale da raggiungere, che posso raggiungere con un comparto tranquillo, non ho nessuna motivazione, salvo che non voglia aumentare la mia copertura previdenziale, per passare, sia che vada bene sia che vada male. Da un punto di vista strettamente finanziario è chiaro che questo potrebbe essere il momento migliore. Però è l'aderente che deve verificare. Punto di partenza è non guardare a quello che accade al mercato, ma guardare più avanti a quello che vogliamo ottenere con la scelta della previdenza complementare. Grazie Gazzi, lo so che l'ho interrotta brutalmente, ma purtroppo devo chiudere perché abbiamo sforato anche di un minuto. Grazie a Davide Squarzoni, a Marco Loconte e Salvadanaio. Torna domani ancora con i mutui, non vi preoccupate perché ci ritorniamo anche questa settimana. Buona giornata. Salvadanaio.